Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo e parleremo chiaramente anche della riforma della pubblica amministrazione. Oggi sono arrivati altri dettagli, anche perché nei prossimi giorni partiranno le prime lettere di ricollocazione indirizzate a 25.000 disoccupati da coinvolgere appunto nell'assegno di ricollocazione. Poi le novità della riforma Madia, tra l'altro i cittadini voteranno il grado di soddisfazione e sarà reso pubblico dei vari uffici della pubblica amministrazione, e vi saranno anche le cosiddette sentinelle, senza ironia. Dovranno andare a monitorare l'andamento, la performance degli uffici anche attraverso un canale aperto con i cittadini. Parleremo anche di Alitalia, perché i sindacati hanno interrotto le trattative con l'azienda, chiedono al governo di essere convocati perché da questo punto di vista non si sta assolutamente, non dico risolvendo, ma neanche non si sta arrivando a qualche forma di spiraglio nella trattativa tra sindacati e azienda. Parleremo anche brevemente del Salone del Mobile di Milano, che partirà il 4 aprile fino al 9 aprile, ormai una delle manifestazioni più importanti non solo a Milano ma a livello italiano per il coinvolgimento che ha, e oltre ai casi anche riguardanti la politica economica, mi riferisco alla dichiarazione di ieri sera del ministro Padoan, faremo un approfondimento su una vicenda che ha creato molte polemiche, e vado subito a chiarirla. Mi riferisco al finanziamento bocciato, non il finanziamento, l'emendamento sulla Ryder Cup di golf. Il presidente del Senato Grasso oggi ha dichiarato inammissibile l'emendamento approvato ieri in Commissione Finanze, ossia la fideiussione, quindi a titolo di garanzia, di 97 milioni di euro per la Ryder Golf Cup. Non c'entra nulla con la tutela del risparmio. Ora, è innegabile che il governo si sia mosso in maniera maldestra e che sia stato un errore nel salva risparmio inserire una fideiussione appunto a garanzia del torneo più importante che c'è di golf al mondo. Non c'entra nulla, e obiettivamente si prestava, cosa che è successa, anche a molte critiche. Come fai a inserire nel decreto che deve portare a tutelare i conti correnti degli italiani, salvare le banche gestite male e anche in maniera, in alcuni casi, colpevole, non solo male, ma ci sono indagini della magistratura in corso, inserire 97 milioni per la Ryder Cup? Obiettivamente c'entrava come le mele con le pere. Detto questo, però, viste le polemiche e anche l'atteggiamento obiettivamente spesso insopportabile, lo dico con massimo rispetto, ma insopportabile di chi subito si mette a fare polemica, ripeto, l'iter e la formula era sbagliata ed è sbagliata, ed è stata una castroneria infilarlo in quel modo. Però poi si può anche ragionare sui temi, visto che stiamo parlando del terzo evento a livello mondiale dopo le Olimpiadi e la Coppa del Mondo di Calcio come evento sportivo. Tutti gli studi e di chi l'ha ospitato parlano di un ritorno di circa 500 milioni di euro dagli eventi, dalle persone collegate. Sono collegati tutte 53 emittenti TV al mondo, 500 milioni di case raggiunte. Allora ne parleremo, perché un conto è criticare l'iter legislativo, un conto è dire che il governo non deve mettere una fideiussione di 97 milioni per un evento che porta poi sul territorio 500 milioni di introiti, perché da questo punto di vista si fa di tutto un erbo un fascio. E soprattutto, a mio avviso, c'è stato anche un atteggiamento oggettivamente sbagliato, perché si parlava di golf. Io non ricordo queste polemiche quando l'Italia ospitò l'America's Cup, i test dell'America's Cup. Il golf, per chi non lo sapesse, il sottoscritto non lo pratica né l'ha mai praticato, per cui parlo come osservatore neutro. Non è più uno sport, diciamo, solo da elitario, da fighetta, è uno sport che coinvolge decine di migliaia di italiani. E soprattutto, al di là di quello che uno può pensare del golf, se c'è un ritorno nell'investimento, nella fideiussione, ma per favore non facciamo polemiche su questo, facciamo polemica sul fatto che il governo l'ha inserito dove non c'entrava assolutamente nulla. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ecco, subito uno mi risponde: ma va a c... Ma guardate che sto paese cioè, è strano, eh. Voglio dire, ma perché uno deve mandare a quel paese il ragionamento se ospitare una manifestazione internazionale, la più importante al mondo nel golf, la terza più importante per ricadute economiche dopo Olimpiadi e Coppa del Mondo, bisogna solo dire no. Ma allora poi non lamentiamoci, il no a tutto porta a non fare nulla. Comunque ne parliamo con calma dopo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Poi lo dico agli ascoltatori che sono molto attivi, per favore andate a informarvi, non pagava Pantalone, c'è una fideiussione, è un'altra cosa, a parte il fatto che se c'è un ritorno su un investimento che è 5 volte l'investimento, ma ben venga l'investimento, ma detto questo è una fideiussione e stiamo dicendo che è sbagliato il modo in cui il governo l'ha inserito, sbagliatissimo. Ma poi da lì a dire il governo paga per il golf e non paga per i correntisti, ma basta con ste cavolate, non paga per il golf, mette una fideiussione a garanzia della manifestazione, no? Ma perché queste polemiche non ci sono in Scozia quando ospita la Ryder Cup o in altri paesi? Cosa sono? Sono tutti becchi? Sono tutti, diciamo, stupidi all'estero e siamo solo noi gli intelligenti? Ma porca miseria. Adesso mi aspetto anche il messaggio: qui i 97 milioni usiamoli per sistemare le buche, perché ormai qua siamo al populismo più sfrenato, come se una cosa fosse alternativa all'altra, come se diciamo mettere dei soldi per una manifestazione che si chiamino Olimpiadi, che si chiamino Mondiali, che si chiamino Riders Cup o America's Cup, no, con una ricaduta economica equivalga a metterli in una buca. Mettiamoli nelle buche e mettiamoli anche dall'altra parte, no? Ma basta questa contrapposizione idiota, ma per favore. Vabbè, andiamo con il mercato. Più 0,13 oggi, poco mossa la borsa, più 0,13 anche Parigi, meno 0,11 Francoforte, invariata Londra, meno 0,16 Dow Jones. Oggi la borsa non presenta tantissimi spunti, tra i titoli Terna più 3,80, A2A più 3%, BPM più 3, Enel più 2,80, Italgas più 2,5 come Snam, il 2% lo guadagna Fiat Chrysler. E l'1,30 Mediobanca, al fronte opposto Mediolanum meno 3,20, Tenaris meno 2,60%, Estima Cryptonics meno 2,40, Hughes Entaporter meno 2% con Buzzi, Unipol 6 meno 1,70 con Generali, l'1,5 lo perde invece Unipol. Allora, ci sono altre priorità, ma dai. Sempre così. Il benaltrismo si chiamava una volta. Ma certo che ci sono altre priorità, infatti stiamo parlando di 97 milioni di fideiussioni, dai. Allora andiamo sulle priorità, iniziamo con l'economia internazionale. Oggi il numero uno della Bundesbank, abbastanza sorpresa, visto che è sempre stato molto critico nei confronti di Mario Draghi della Banca Centrale Europea, lui si chiama Hans Weidmann ed è il numero uno della Banca Centrale Tedesca, dice: attenzione, la Banca Centrale Europea non è ancora arrivata al punto di poter frenare del tutto la politica espansiva, quindi il quantitative easing, lo stampaggio di moneta, come diciamo noi in maniera un po' approssimativa, e esiste una via di mezzo per far andare a tutto gas e frenare bruscamente, si deve decelerare, quindi invita alla calma. E poi oggi Weidmann dice: ci sono anche effetti positivi grazie ai tassi bassi in Germania, si accede a crediti, i posti di lavoro sono più sicuri, cioè, si rende conto che la politica di Draghi avvantaggia anche e non poco la Germania stessa. Vedo che la Ryder Cup tiene banco, vabbè, Qualcuno mi scrive: la fideiussione non è un esborso subito, grazie, ma potrebbe essere in futuro, per cui... Allora, potrebbe essere in futuro, ho capito, se tu non riuscissi a coprire le spese dell'organizzazione, ma abbiate un po' di pazienza, ci arriviamo con il nostro Marco Bellinazzo, che segue per il Sole 24 Ore la parte economica degli eventi sportivi, ci arriveremo. È un atto dovuto, comunque adesso non voglio, andiamo avanti con il programma tranquillamente, poi arriviamo anche alla Riders Cup e se il governo debba o no mettere una fideiussione di 97 milioni di euro per un evento che ne porta circa 500 milioni. Andiamo avanti, dicevo, per quello che riguarda invece l'OCSE, oggi il super indice economico dell'OCSE prospetta una crescita che accelera in molti paesi, in Stati Uniti, Canada, Giappone, ma anche in Francia e Germania, ma purtroppo resta stabile in Italia, quindi resta quello che abbiamo previsto, 0,9, vedremo se sarà 0,9, se sarà 1 o 0,8, ma senza nessuna accelerazione. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il superindice dell'OCSE, l'organizzazione che raggruppa i 35 principali paesi industrializzati del mondo, è utile per avere un'idea appunto di dove va l'economia del pianeta. E nonostante il clima depressivo che si sparge a piene mani nei dibattiti europei, in molte parti del mondo la crescita è in accelerazione. Purtroppo in Italia è data solo come stabile. La crescita dovrebbe accelerare negli USA, in Canada, in Giappone, come pure in Francia e in Germania, e anche nei paesi emergenti. La cura Trump sugli investimenti deve essere considerata molto favorevolmente dall'OCSE, così come la cura della domanda che è in atto in Giappone. Quanto a Francia e Germania, il superindice sembra sottovalutare però le fibrillazioni dovute alla prolungata campagna elettorale, anche perché ad esempio per la Germania la buona performance del PIL è dovuta soprattutto agli investimenti immobiliari pubblici fatti dal governo per la gestione della politica di accoglienza dei migranti, che ora è messa pesantemente in discussione. È evidente la cautela che usa l'OCSE nel valutare il prossimo futuro per la Gran Bretagna, viste le incertezze nella gestione di Brexit. Secondo l'OCSE nel Regno Unito ci sono indizi di miglioramento, ma il superindice resta sotto il trend e persiste l'incertezza proprio per la scarsa chiarezza sull'accordo che la Gran Bretagna siglerà per il divorzio dall'Unione Europea. In termini medi, nell'intera area OCSE, dice la nota dell'istituto, come pure nell'Eurozona e in Italia, il superindice anticipa una tendenza di crescita stabile, che per l'Italia è già molto visto quanto è delicata la situazione di incertezza politica legata alla prossima stagione elettorale. Tra i maggiori paesi emergenti, infine, si prospetta una crescita in accelerazione in Cina, Brasile e Russia, mentre è vista in rallentamento per l'India. I nostri esportatori, per fortuna, l'hanno già capito da tempo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Di nuovo in diretta con le notizie in breve, no, sorrido perché tutta sta polemica sulla Riders Cup, c'è uno che dice: vabbè, non copriamo le buche, così li utilizziamo come campi da golf. Vabbè, dai. Prendiamo da ridere e poi chi mi dice: voglio proprio vedere come fa un evento, che cosa racconterete. Guardi, citiamo gli studi di PricewaterhouseCoopers a livello mondiale, ma aspetti un attimo, se vuole proprio vedere ascolti e adesso ci arriviamo. Allora, lo spread oggi è tornato sotto i 200 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni cala al 2,32%, anche quello francese in lieve calo a 76 punti. Noi restiamo comunque ampiamente sopra il divario tra titoli di Stato tedeschi e spagnoli, che ha soli 138 punti. Padoan ieri in audizione ha detto al Parlamento: le velocità multiple in Europa vanno bene, basta che l'Italia sia nel gruppo di testa. La Merkel intendeva però la parte di politica estera e di gestione anche di politica estera, flussi migratori. Il fiscal compact andrebbe profondamente rivisto e evitare l'aumento dei tassi ci porterà a spendere meglio le risorse che in questo modo si potranno liberare. La ragione principale per cui dobbiamo evitare una procedura di infrazione è dunque semplice: dobbiamo evitare che aumenti la spesa per gli interessi pagati sul debito pubblico. Ricordo che la spesa per interessi nel 2016 è stata inferiore alla spesa del 2012 di 17 miliardi di euro, l'equivalente di un punto di PIL. Spendere risorse per fare investimenti e produrre beni pubblici è certamente preferibile che pagare maggiori interessi sul debito. ancora oggi. Interessante quanto ha detto oggi Carlo Cottarelli, direttore del Fondo Monetario Internazionale ed ex commissario alla Spending Review. Abbiamo sempre criticato la mossa del loro governo Renzi di, diciamo, liberarsi di Cottarelli dopo tutto il lavoro che aveva fatto e ripartire quasi da zero. Diciamo, Cottarelli torna sul tema e dice: attenzione, sì, qualcosa c'è stato fatto, per esempio l'accentramento di alcuni costi, penso soprattutto a costi di carattere sanitario, però il problema è che quando inizia a fare la spending review c'è sempre qualche lobby che interviene. Ma qualcosa si è fatto, insomma, la cosa più grossa che si è fatta è la riforma degli acquisti della pubblica amministrazione. La centrale che, unica? La centrale, le varie centrali, ce n'è unica, sì. Ma c'erano, insomma, 30, avete accorpato le centrali? Una trentina di centri di acquisto vanno bene per l'Italia. Perché? Le difficoltà nel fare le altre cose derivano fondamentalmente dal fatto che quando si cerca di tagliare la spesa c'è sempre qualcuno che si lamenta, c'è qualche lobby che si lamenta. Quindi ci vuole sufficiente coraggio, lungimiranza. Ci sarebbe anche, sinceramente, devo dire l'opinione, la mia opinione, la necessità di litigare un po' meno tra le diverse parti politiche, nel senso che un bilancio non ha un colore politico. Il fatto che i conti debbano tornare non ha un valore politico. Secondo me si litiga un po' troppo in Italia su queste cose. Ci vorrebbe un accordo che, come in America, si chiama bipartisan. E veniamo al tema dei voucher invece, perché a gennaio sono stati venduti meno di 9 milioni di buoni per lavoro accessorio, è il livello più basso dal gennaio 2016, lo ha ricordato Tito Boeri, presidente dell'INPS, in audizione alla Commissione Lavoro della Camera, però grazie anche alla tracciabilità, secondo Boeri la media è molto più bassa del 2016. E poi Boeri dice: attenzione, uno degli obiettivi nell'introduzione del voucher era far emergere il lavoro nero, ma questo obiettivo non è stato raggiunto. L'emersione è una goccia nel mare. Secondo l'Istat il lavoro irregolare riguarda il 16% del lavoro, il lavoro in nero, mentre i voucher si sono limitati allo 0,3%, circa 70.000 persone. Primo obiettivo, quello legato in generale all'emersione del lavoro nero. Ecco, questo obiettivo non sembra essere stato conseguito se non in parte del tutto marginale. Anche qualora tutti i voucher corrispondessero a ore di lavoro recuperate al lavoro nero, sottratte se vogliamo al lavoro nero, si tratterebbe di una goccia nel mare delle irregolarità. Secondo i dati Istat, nel 2014 il lavoro nero assorbiva circa il 16% delle posizioni lavorative e il 16% delle unità di lavoro, per circa 3 milioni di unità di lavoro a tempo pieno. I voucher nel 2016 hanno coperto l'equivalente in termini orari di circa 70.000 posizioni lavorative a tempo pieno, vale a dire solo lo 0,3% del lavoro nero stimato, quindi una goccia nel mare. Allora, c'è una notizia oggi che è una buona notizia, dopo che ieri, insomma, abbiamo letto la lettera di quel ragazzo che si è tolto la vita, chi vi parla, anni fa, nel 2013, facevamo una campagna Disperati Mai sugli imprenditori che si toglievano la vita. È chiaro che bisogna stare molto attenti quando parliamo di questi temi, ci sono delle volte delle componenti, anzi spesso le componenti personali, insindacabili, insondabili, e soprattutto che nulla c'entrano con la parte economica. La lettera oggettivamente è una lettera di grande disperazione, in cui che il ragazzo ha scritto, ha detto: dentro di me non c'era il caos, dentro di me c'era ordine, questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità, non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato. E il giovane poi ha aggiunto: è un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento e privo mai anche di prospettive. E qui c'è la componente personale, va al massimo chiaramente rispetto e anche privacy. La buona notizia invece riguarda il caso di una donna che è stata assunta al nono mese di maternità. L'azienda si chiama, è a sede a Mestre, The Creative Way, un'azienda di web design e web development in espansione. Lei è Martina Camuffo, 36 anni, è stata assunta dai due uomini titolari dell'azienda, Samuele Schiavone e Stefano Serena, e grazie all'esperienza maturata e anche al fatto che Schiavone l'avesse già vista al lavoro per un'azienda, una grande azienda di vini friulana, e le era piaciuto l'approccio e la preparazione. E la cosa interessante è la dichiarazione che rilascia Schiavone, che dice: ho capito le difficoltà di mia moglie, aveva un tempo determinato e quando ha comunicato che aspettava un bimbo è stata lasciata a casa. Sul piano lavorativo la maternità è quasi una condanna. In ogni caso non volevo essere io a tenere comportamenti di questo tipo. Di fronte al valore della persona non ho avuto dubbi. Lei è stata assunta, aveva anche detto che si trovava verso il nono mese di maternità, è stata assunta e messa in maternità e l'accordo, tra virgolette, è che lei sarebbe tornata al lavoro fra 5 mesi. Lei stessa dice, quasi non ci credevo. Allora, ha ragione Schiavon, ce ne siamo già occupati altre volte, nel dire che la maternità in alcune imprese, non dico tutte, ma viene considerata come un problema, e questo ci porterebbe anche poi a ricordare tutte le forme che non vengono sviluppate in questo paese dai privati e dal pubblico. Penso agli asili aziendali, penso ai bonus bebè veri, quelli che danno in Francia per babysitter e per l'approvvigione, diciamo, per le spese di prima necessità delle coppie che hanno figli e quant'altro. Ma cioè, è un paese strano questo, perché da un lato ci lamentiamo che poi la forza lavoro bisogna prenderla da fuori, parlo dell'immigrazione regolare, poi ogni volta che una donna è in maternità diventa un problema aziendale, e facciamo pace col cervello, lo dico anche agli imprenditori che da questo punto di vista vedono nella maternità un problema, facciamo pace col cervello, nel senso che poi se il tasso demografico resta così, e vale per il quoziente familiare mai introdotto, nonostante tutta la retorica cattolica sulla famiglia, non si è mai riusciti ad arrivare a un quoziente familiare nel pagamento delle tasse che diciamo avvantaggi il nucleo familiare rispetto a chi è single e via così, facciamo pace col cervello. Poi non ci si può lamentare se il tasso demografico in questo paese resta tra i più bassi assieme alla Germania a livello europeo e anche a livello mondiale. Allora, andiamo sul primo tema che ci porta a, anzi, prima un approfondimento sul Salone del Mobile che si aprirà il 4 aprile a Milano, 56esima edizione. Ormai insomma, i visitatori sono attesi quest'anno oltre 300.000 provenienti da 165 paesi, 5 manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Euroluce, Workplace 3.0 e Salone Satellite. 2.000 gli espositori, il 30% esteri. E questo per un settore come il legno arredo, che in Italia vuol dire 40 miliardi di euro di fatturato aggregato, oltre 81.500 aziende che lavorano anche nell'indotto e oltre 300.000 addetti, per un export che ha toccato i 14 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2016, secondo quanto oggi ha dichiarato Federlegno, ha superato gli 11 miliardi con crescite importanti soprattutto in Francia più 5,3%, Stati Uniti più 8%, Cina più 16% e segna ancora il passo, come già ricordavamo ieri parlando del settore dell'agroalimentare, la Russia, dove le perdite sono più contenute ma ancora non si vedono i livelli di 4 anni fa. Come ha spiegato il presidente di Federlegno Arredo e del Salone del Mobile, Roberto Snaidero, al nostro Daniele Zinni. Il 2016 si chiude, perlomeno gli ultimi dati che abbiamo noi, con una crescita generalizzata su tutti i mercati, ad esclusione della Russia, ma con un segno completamente diverso dagli altri anni, quindi non una perdita del 20-22%, ma abbiamo recuperato qualche punto a livello di esportazione. Mi auguro che nel futuro si possa ritornare alle vecchie dati di esportazione sul mercato russo, perché per noi è molto importante. Da quali paesi arrivano le maggiori opportunità? I maggiori paesi sono gli storici paesi, Francia, Germania, per quanto riguarda la vecchia Europa. Esportiamo oltre 1,3-1,4 miliardi sia in Francia che in Germania, ma quello che sto vedendo è una crescita sul mercato americano. Negli Stati Uniti, che siamo vicini al 1 miliardo di esportazione, siamo circa un 6-7% in crescita. Ma ancora più eclatante è la crescita del 16% del mercato cinese. Abbiamo mercati nuovi, tipo l'Iran, che noi già prima ancora che togliessero l'embargo, noi avevamo già fatto delle missioni B2B. È chiaro che partiamo da zero su questo mercato, ma vediamo che potenzialmente possiamo crescere. In questa prospettiva internazionale il Salone del Mobile quanto è importante? Ma io credo che il Salone del Mobile, che è l'evento mondiale numero uno nel nostro settore del design e arredamento, è molto molto importante, perché ci permette di, oltre qui a Milano, perché qui è sempre una novità a Milano, io stesso quando entro il primo giorno di apertura del Salone vedo delle cose che mai mi sarei immaginato. Ecco, questa è la vera forza del Salone del Mobile, questa è una delle eccellenze del Made in Italy in giro per il mondo. Vorrei ricordare che proprio a novembre abbiamo fatto il Salone del Mobile di Milano a Shanghai con un successo che è andato oltre qualsiasi aspettativa, e credo che questo sia proprio, rappresenti quello che il Salone del Mobile e le imprese italiane sanno fare e mostrare fuori al mondo intero. Allora, la borsa ha chiuso più 0,40%, ce ne occupiamo dopo meteo e pubblicità. Prima però un approfondimento sul Mediterraneo, perché domani c'è un appuntamento di due giorni importantissimo a Roma sull'area mediterranea, quindi l'economia dell'area mediterranea, nel giorno in cui oggi ha preso posizione la Commissione Europea. Il vicepresidente Timmermans ha detto da marzo la Commissione non esclude l'ipotesi di procedure di infrazione, sarebbe anche ora, aggiungo io, non solo l'infrazione per lo 0,2 del deficit sul PIL contro i paesi che non accoglieranno i previsti ricollocamenti dei rifugiati. E io su questo, insomma, sono nettissimo: tu non puoi stare in Europa per beccarti benefici, lo dico alla Polonia, all'Ungheria, agli ultimi arrivati, che tra l'altro dovrebbero insegnare agli altri o ricordare loro, come tutti i paesi dell'est Europa, che tipo di accoglienza vi è stata nei confronti dei lavoratori polacchi, dei lavoratori rumeni, dei lavoratori ungheresi, e invece si scoprono, diciamo così, puristi dell'ultima ora, e tra l'altro però ricevono i fondi dell'Unione Europea. Speriamo che si vada avanti sulle procedure di infrazione e che l'Europa non continui a essere solo un ragioniere, col massimo rispetto e senza offesa per i ragionieri. Nel frattempo l'area mediterranea viene studiata, ripeto, domani e dopodomani, ed è previsto anche l'intervento del Presidente del Consiglio Gentiloni. Ne parliamo prima della borsa, dopo però il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, andiamo sull'evento di domani. Mi scrive un ascoltatore: abbiate un po' di pazienza, mi sembra che l'argomento di oggi più importante sia la Riders Cup, perché diamo del populista che dice ma usate i soldi per coprire le buche, perché è un ragionamento che è un ragionamento del piffero. In un paese normale le buche si coprono nonostante i tentativi di avere la Riders Cup o di fare altre manifestazioni, non è sempre un'alternativa, ok? Allora coprite le buche, a Roma in primis, lo faccia il comune, non hanno fatto le gestioni precedenti, e vale anche per altre città. Ma continuare a dire no, non usiamo quei soldi come fideiussione perché ci sono le buche, vuol dire non fare l'uno nell'altro, è un ragionamento del piffero, ripeto, il che vuol dire che tu le buche le devi coprire senza se, senza ma, lasciando stare quello che il governo fa per mettere la fideiussione per un evento che adesso spiegheremo negli altri paesi che l'hanno ospitato, ha generato mezzo miliardo, poi saranno bravi gli scozzesi che, essendo scozzesi, hanno saputo risparmiare. Andiamo comunque all'Euro, lo Strategic Growth Forum Mediterraneo, che si terrà domani e dopodomani a Roma. Opportunità di sviluppo e investimento nel bacino del Mediterraneo. Chiedo a Donato Iacovone, ministro delegato di Ernst & Young Italia. Buonasera Iacovone. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Voi presenterete anche il Baromed Report, insomma i dati degli scambi commerciali dei 28 paesi della regione, tra i 28 paesi europei e la regione dell'Euro Mediterraneo. Venerdì chiuderà il Presidente del Consiglio Gentiloni. In questo periodo però, con le tensioni politiche, con i flussi migratori, con quello che vediamo, la difficoltà nell'arrivare a un accordo anche con la Libia, ma non solo, ha ancora senso parlare di area economica dell'euro mediterraneo? Dunque, noi lo riteniamo per due ragioni. Intanto perché, come sosteneva il professor Alberto Resina qualche giorno fa, quando non si muovono i capitali e i beni si muovono le persone. e noi siamo purtroppo diventati un hub in termini di accoglienza di rifugiati e comunque di persone che si spostano perché non hanno condizioni economiche o politiche e sociali accettabili. E quindi lo sforzo che tutta l'Europa, ma che tutta quest'area che abbiamo considerato deve fare è quello comunque di continuare a fare investimenti. Ma la seconda sorprendente notizia è che tra il 2011 e il 2015 sono affluiti in quest'area che consideriamo nei 28 paesi appunto 771 miliardi di dollari. E con un'increase, con un aumento di questi flussi tra il 2011 e il 2015 dello 0,5%, che per cento in termini di operazioni che sono avvenute, che non è un grande aumento, ma vuol dire che nonostante l'instabilità che in alcune aree c'è, Libia era un esempio, ma anche in alcuni altri paesi del Middle East e non solo, e basti considerare che dei 28 paesi negli ultimi anni, negli ultimi tre anni sono cambiati 17 tra governi o ci sono state nuove elezioni, quindi c'è una grande fermento e instabilità, nonostante questo affluiscono investimenti perché l'area rappresenta comunque il 7,7% della popolazione mondiale e il 13,7% del GDP e l'Italia è al centro di quest'area. O è naturalmente al centro. Quindi di questo ambito. Questo giustifica i 771 miliardi di investimenti diretti tra il 2011 e il 2015. L'Italia come può sfruttare questo? Perché ho capito geograficamente al centro, lo siamo anche in maniera tra virgolette negativa, visto che poi siamo assieme alla Grecia il principale approdo per gli sbarchi dei migranti. Cosa possiamo noi fare per sfruttare questa opportunità? Perché si parla molto di relazioni anche istituzionali. Iacovone. Noi abbiamo da svolgere qui un compito di ponte tra l'Europa e queste e le regioni in particolare del nord del Nord Africa, ma anche insomma del Middle East, dei Balcani, di quest'area in cui noi esportiamo peraltro e con cui abbiamo relazioni industriali con tutti questi paesi. Però abbiamo la necessità di aumentare il volume di investimenti, in tutti e due i sensi, questo è il ruolo che ci è richiesto, quello di fare da ponte, non solo dal punto di vista politico e sociale, che probabilmente in alcuni casi facciamo anche, ma anche quello di mettere in connessione il business e di rassicurare il business e di aiutare a creare stabilità in quest'area, perché è la condizione necessaria per continuare ad attrarre investimenti esteri in quest'area. Solo questo può creare un clima migliore anche da un punto di vista sociale per noi, anche da un punto di vista dei rifugiati e comunque dell'accoglienza che noi stiamo facendo. E quindi questo è quello che ci è oggi richiesto ed è quello che noi dobbiamo svolgere in quest'area in cui noi siamo. Allora, in bocca al lupo, perché poi seguiremo anche i lavori domani e dopodomani, seconda edizione dello Strategic Growth Forum Mediterranean. Grazie a Donato Iacovone, appunto, mi sono legato di NS Young Italia. Visto che però ce l'ho, Iacovone, mi dica una cosa sull'andamento che voi monitorate delle imprese italiane, medie, non solo le grandi. State notando qualche segnale di miglioramento oppure no? Il segnale di miglioramento che noi accogliamo rimane quello delle esportazioni, cioè questo è un paese con mille difficoltà interne, in gran parte, come purtroppo leggiamo dal giornale, anche in vendita, con difficoltà a mantenere anche headquarters nel paese, però quando andiamo a vedere l'indicatore delle esportazioni noi continuiamo a crescere e comunque siamo un paese che nonostante tutto esporta più di 440 miliardi di dollari all'anno. Ma non si riuscirà ad avere una crescita significativa solo con l'esportazione, questo ormai abbiamo capito, se non ripartono. Soprattutto non riusciamo a dare un futuro ai nostri giovani disoccupati, questo è il tema principale. Noi per dare un futuro ai nostri giovani dobbiamo investire in Italia, credere nel paese, ricreare un clima diverso, insomma. Sì, e far ripartire anche il mercato interno. Questo ci porterebbe anche sulle politiche economiche, anche di carattere europeo. Intanto, grazie di nuovo, andiamo sul traffico, poi la borsa e poi, oltre che all'Italia, anche la Riders Cup. Focus Economia. Allora, la borsa oggi giornata molto molto transitoria, si riscoprono i titoli più sicuri, penso agli energetici, gli utilities Terna più 3,66, A2A più 3%, Snam più 2,90, Enel più 2,80, sono il secondo, il terzo, il quarto miglior titolo, il quinto miglior titolo. Il primo è Banco BPM più 4,10, Fiat Chrysler più 2,5%, Italgas ancora sugli utilities più 2,30%, Atlantia anche qui, insomma, titoli difensivi più 1,54%, Mediobanca più 1,40%, UbiBanca più 1,20% come Azimut e BPerBanca. Fronte opposto, Mediolanum meno 2,5%, ieri era salita assieme al risparmio gestito, la stima Electronics meno 2,5%, Tenaris meno 2,20%, Jux meno 2%, Buzzi Unice meno 1,60%, Saipem meno 1,30% come Leonardo e Poste Italiane, Generali meno 1,1%. Beh, dopo le dichiarazioni di Intesa San Paolo si è un po' raffreddata, c'è cioè tutta la speculazione sulla guerra per il controllo delle generali. Andiamo anche sui migliori e peggiori oggi. CHL più 17%, Gequity più 17%, Novatec più 12%, Sintesi più 11%, Ross meno 8%, Commerzbank meno 5%, Industria e Innovazione meno 4,90%, Banco Santander meno 4,60%. All'Italia, alle volte ritornano la Grecia, dicevamo ieri, con la posizione del Fondo Monetario Internazionale, e anche l'Italia è un grandissimo déjà vu, e per i déjà vu occorre anche il soggetto che ci ricordi. Gianni Dragoni, buonasera, del Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Allora, i sindacati hanno rotto le trattative con l'azienda, chiedono un intervento del governo. Oggi tra l'altro scopriamo che 350 piloti di Alitalia su 1500 in organico stanno cercando nuove compagnie. Che le buste paga dell'Italia sarebbero già sotto alcuni livelli come quello di EasyJet o Air Berlin, ma insomma lo scontro su cos'è e che cosa possono sperare di ottenere i sindacati, visto che obiettivamente il gruppo continua a perdere e perde quasi 1 milione di euro al giorno. Lo scontro è sulla riduzione, sul taglio delle buste paga attraverso un cambiamento del contratto che porta quindi a una riduzione consistente. All'Italia ha come obiettivo di ridurre il costo del lavoro del 25%. 25% vuol dire 150 milioni all'anno rispetto ai livelli attuali, e intenderebbe farlo attraverso un cambiamento forte del contratto e poi una, per esempio, gli scatti di anzianità non sarebbero più ogni anno ma ogni 5 anni per i naviganti, per fare un esempio, cioè piloti e hostess, ma ogni 5 anni, e poi attraverso degli esuberi che non sono mai stati esplicitati quanti siano. Quindi cosa possono ottenere? Ma il governo per ora anche fa melina, perché dice non abbiamo ancora il piano industriale, ma è vero, il piano industriale non c'è, si sa solo che l'Italia perde, quest'anno prevede di perdere più di 600 milioni di euro, avrà bisogno di una ricapitalizzazione. Quello su cui si potrà ragionare è capire qual è il se l'Italia ha la speranza di, come dire, andare avanti e di fare un accordo. Adesso si parla molto di un accordo con Lufthansa che nicchia un po', però questo discorso è in corso. Lufthansa ha chiesto che prima l'Italia riduca i costi in modo da essere competitiva. E che possibilità ci sono di arrivare a un accordo? Perché insomma mi sembra che per ora le parti siano più che contrapposte. I sindacati dicono da inerzia il rischio, con questa inerzia il rischio che le misure diventino via via più drammatiche, dichiarano oggi i sindacati. Il ministro Del Rio ha detto il dialogo con i sindacati va tenuto, dalla compagnia ancora nessun piano. Credo che le possibilità si basino sul fatto che a un certo punto all'Italia potrebbe dire che non ha più soldi. All'Italia avrà la cassa assicurata dai soci, dalle banche e da Etihad fino a fine marzo. Il personale, i dipendenti temono anche che all'Italia possa essere fatto fallire di nuovo per essere poi ricomprata, diciamo, a valori da saldo anche con dei contratti più bassi. Chiaramente i soci non sono obbligati a mettere sempre i soldi, quindi la possibilità di fare un accordo alla fine forse ci sarà, a condizioni molto peggiorative anche per i lavoratori. Lufthansa sta aspettando questo, diciamo che comunque per le condizioni in cui è l'Italia, indipendentemente adesso dalle responsabilità, dalle colpe, le prospettive sono piuttosto difficili. Ecco, però oggi Etihad ha dato i dati sul 2016, ha avuto un aumento del 6% di passeggeri. Etihad è l'azionista di maggioranza relativa in Alitalia, con un aumento del 6%. Questo vuol dire che il problema è proprio di Alitalia. Beh, Alitalia ha un problema sicuramente, tant'è che Alitalia non ha ancora detto quanti passeggeri ha trasportato l'anno scorso, ma si parla di circa 22 milioni, numeri ufficiosi, che sarebbe un non sarebbe un aumento, sarebbe sostanzialmente stabile. Quindi certamente Alitalia ha un problema, ma è un problema anche di come è gestita, di come è la rete, questo è il principale problema. A forza di tagli, Alitalia ha una rete che è una rete debole nel medio raggio, dove ci sono le low cost, che sono, trasportano sempre più passeggeri, e Alitalia non è in grado di competere neanche lontanamente. Nel lungo raggio non ha tante destinazioni, quindi non riesce neanche a raccogliere passeggeri da mettere sul lungo raggio, per cui non è una cosa né l'altra. L'unica cosa è che continua a perdere soldi, andrebbe un po' ridisegnato tutto questo modello. Infatti la critica è stata che l'investimento sul lungo raggio si è composto di soli due aerei in più, cioè sta procedendo lentamente. Grazie intanto a Gianni Dragoni, andiamo su GR24, poi parliamo di sta benedetta Riders Cup e dell'atteggiamento, ripeto, lo dico prima che scriviate, è stato sbagliatissimo, una castroneria quella del governo di inserirlo nella legge salva banche o salva risparmio, secondo come uno voglia vedere. Ma poi il tema è la polemica accessoria, a mio avviso, anche perché si chiama golf e non si chiama calcio. Comunque, andiamo su GR24. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. :18:09, allora in questa puntata un po' singolare, l'approfondimento più atteso, ripeto. Il Presidente del Senato Pietro Grasso oggi ha dichiarato inammissibile l'emendamento del decreto salva banche approvato ieri dalla Commissione Finanze, in cui veniva infilato la concessione di garanzie per eventi sportivi, tra cui i 97 milioni di euro di fideiussione per la Ryder Golf Cup in programma nel 2022. Abbiamo detto, lo dico la terza volta, che è stata una castroneria quella del governo infilarlo nel decreto salva banche, salva risparmio o salva risparmio, perché è chiaro che politicamente ti esponi la critica, ma come? Mentre tiriamo fuori 20 miliardi per le banche gestite in maniera fraudolenta in alcuni casi, penso al Monte dei Paschi, ma non solo, ci infili anche il golf, e obiettivamente si prestava mille critiche, tant'è che il Presidente del Senato Grasso ha detto no, non c'entra nulla con il tema, e questo è sicuramente una castroneria del governo. Detto questo, cercavo di dialogare, se possibile, con alcuni ascoltatori sul senso dei 97 milioni, perché se continuiamo a dire ah, ma i soldi servono per tappare le buche, servono per gli asili, allora, a parte il fatto che con 97 milioni non ci fai nulla, uno. Due, è una castroneria anche questa, perché non sono in alternativa le cose. Tu le scuole, gli asili, devi mettere in sicurezza, che si faccia, che non si faccia l'evento sportivo, di cosa stiamo parlando? Quarto aspetto, ho cercato di far capire che si tratta di una fideiussione per un evento che muove un giro d'affari, cioè di chi poi lo ospita, e quindi ci saranno imprenditori, persone che vi lavorano attorno, pari a mezzo miliardo di euro per l'evento. È il terzo evento, se la gioca con il mondiale di rugby, dopo chiaramente Olimpiadi e mondiali di calcio, come ritorno economico, come somme che muove. Qui non stiamo però dicendo, bisogna, ieri abbiamo fatto l'approfondimento sullo stadio della Roma, mettendo in evidenza non tanto quello che chiede Parnasi, ma la situazione economica di Parnasi, i debiti che ha con le banche, e capire insomma se regga l'operazione dal punto di vista finanziario. Oggi con Marco Belinazzo, che per il Sole 24 Ore segue tutti i temi legati a economia e sport. Buonasera Marco. Eccomi, buonasera. Vorrei capire perché è importante la fideiussione, cioè lo chiede chi, nel senso, quando tu vinci, come in tutte le manifestazioni sportive di carattere mondiale, vinci, viene designato come sede, devi mettere una garanzia, la fiduzione questo è. E poi da alcuni ascoltatori mi scrivono, ma come fate a stabilire il ritorno? Beh, faccio notare che la Ryder Cup, io non gioco a golf, non ho nessun interesse col mondo del golf, diciamo non me ne frega nulla della mazza da golf, per cui proprio state tranquilli e sereni su questo. Ma dicevo, è 100 anni che c'è la Ryder Cup. È 100 anni. Ma partiamo dalla fideiussione e poi veniamo anche al calcolo del ritorno economico. Guarda, giusto per capire se in questo paese si riesce ancora a fare un ragionamento su investimento e ritorno sull'investimento, o qualunque euro speso per altre cose diventa un euro sprecato al di là dell'investimento. Qualunque privato imprenditore sa che non è importante l'euro che spendi, ma il ritorno che hai sull'euro che spendi. Però andiamo con ordine. Andiamo, prego, con Marco. Ordine. Sostanzialmente, quando l'Italia ha vinto il bando per organizzare la Ryder Cup, ci sono tantissimi paesi al mondo che la vogliono organizzare, è stata una vittoria incredibile, perché ci sono paesi in cui il golf è molto più diffuso e quindi non si sono spiegati come mai l'Italia sia riuscita a conquistare questo evento. Questo per far capire quanto sia ambito come evento. Detto questo, quando tu fai il contratto poi con l'organizzazione che ha il marchio Ryder Cup, devi prendere una serie di impegni, perché l'idea della Ryder Cup è quello, come è stato fatto in Spagna, di far crescere il movimento del golf, che è il movimento sportivo. A me fa un po' ridere, perché io non gioco a golf e non ho mai creduto alla diffusione popolare, eppure è lo sport che ha il numero maggiore di praticanti al mondo, 65 milioni. Detto questo, devi assumere degli impegni, tra cui per esempio organizzare il tuo torneo principale, l'Open d'Italia, che deve essere inserito nell'alveo dei tornei più importanti. Per questo, ad esempio, devi alzare il montepremi da 1,5 a 7 nell'arco di 10 anni. Questo significa che ti esponi a una serie di obblighi, no, dal punto di vista economico. Ora, è chiaro che prima di coprire questi costi, ti dico da un attimo come si stanno coprendo, tu hai bisogno, per andare a iniziare di investimenti, dare una garanzia. No, perché l'altra domanda che arriva correttamente in questo caso è ma perché i soldi non li mettono gli sponsor, la Federgolf? Perché tu prima devi dare determinate garanzie infrastrutturali di poterlo organizzare, quel torneo. Dopodiché, una volta che quel torneo ha il suo stanziamento di montepremi da 7 milioni, l'Organizzazione Mondiale del Golf lo può inserire tra gli eventi più importanti, come sono quelli del tennis, non so, Wimbledon, piuttosto che Roland Garros, dove tu hai la certezza che vengono a giocare i giocatori più importanti, Tiger Woods per citare quello più popolare. Nel momento in cui tu hai questo tipo di ingranaggio, allora puoi andare dalle TV, e lo si sta facendo, e dire: io per i prossimi 10 anni organizzo il quarto, il quinto torneo più importante al mondo e ottenere 40-50 milioni, cosa che si sta facendo. Oppure andare dalla Rolex, che è lo sponsor principale del torneo di golf, e avere altri 10-15 milioni. In questo modo, più gli altri sponsor secondari, tu vai anche ad ottenere una somma maggiore di 97 milioni. Quindi, diciamo, molto molto probabilmente quei 97 milioni non saranno mai toccati dall'organizzazione. Mi rendo conto che magari è poco demagogico dirlo, ma questo tipo di investimenti sono assolutamente profittevoli. Di conseguenza doveva restare lì, deve iniziare lì, stare la garanzia lì per poter cominciare a fare gli investimenti e avviare questa macchina. Sui ritorni è molto probabile che ci siano, perché quelle cifre, immagino tu abbia ricordato, il rapporto KPMG e PricewaterhouseCoopers sono, nascono dal fatto che le precedenti edizioni hanno avuto per esempio 300.000 spettatori. C'è stato un torneo a Austin poche settimane fa negli Stati Uniti che ha avuto 665.000 spettatori sul campo nei tre giorni in cui si è svolto. Sono fenomeni pazzeschi per noi che siamo calciocentrici, però il mondo va in questa direzione. Io dico due cose banalmente: ma perché le stesse polemiche non le ho viste anni fa quando si fece l'America's Cup? Ora, la vela, lasciatemelo dire, se il giudizio in questo paese deve essere sport da ricchi, non sport da ricchi, è sicuramente uno sport più da ricchi delle volte che del golf, che viene praticato anche dai tecnici qui, no, se non ricordo male, ne abbiamo uno che è un appassionato di golf. Si sta diffondendo. Io non lo gioco, non ho nessun interesse, non capisco perché devo continuare a ricevere messaggi tipo idiota, sarai tu lecca che del che, ti auguro di finire in miseria, bastardo, ho capito. Chiedo a queste persone di farsi un giro. No, se possibile. Si fa un giro e basta. No, nell'Algrave in Portogallo. Ma no, io dico: Antalya, ma sono tutti pazzi gli spagnoli, i portoghesi, gli scozzesi. La Spagna e la Scozia l'hanno ospitata recentemente. Assolutamente. Sono tutti pazzi, siamo solo noi. Poi vorrei sapere sempre queste persone che cosa hanno votato in questi 30 anni, perché tutti si riscoprono ben pensanti. Si sta dicendo che, se ho ben capito, nella procedura devi lasciare una fideiussione che poi non viene esercitata, nel senso non è mai stata esercitata, e che il giro d'affari stimato, giro d'affari vuol dire ritorno sulla città di Roma in questo caso, che dovrebbe ospitarli, è di circa 500 questa milioni. Questa è la stima minima. La stima minima sono 500 milioni, poi saranno casi del privato che ci investe, cioè dei network televisivi che vogliono prendersi i diritti, degli sponsor a partire dalla Rolex, che è uno sponsor storico del golf, di vedere se l'investimento che mettono gli torna indietro oppure no. Ma tu ne hai una ricaduta, diciamo, anche di carattere alberghiero, anche magari in qualche spesa, non so, chiedo. Intere regioni, citavo l'Algrave in Portogallo, intere regioni della Spagna, Antalya in Turchia, che sono rinate intorno al turismo del golf. Ci sono 65 milioni di praticanti americani, tedeschi, scandinavi che amano giocare al golf e che naturalmente hanno la possibilità di giocare tutto l'anno in aree in cui solitamente c'è un tempo migliore rispetto alla Svezia o alla Norvegia. E no, di conseguenza, a me, ripeto, dopo aver definito 30 volte una castroneria quella del governo di infilarlo nel decreto salva banche, salva risparmio, che non c'entrava, visto che parliamo di golf, una mazza. Però da questo punto di vista, poi da lì allargare, ecco i soldi per le buche, i soldi per gli asili. Io ho detto che con 97 milioni non sono niente, a parte che non li tiri fuori, li metti a garanzia. Ho detto semplicemente che i problemi dell'edilizia scolastica non li risolvi con 97 milioni, li devi fare e basta certe cose. Non è sempre un'alternativa A. Ok? Dopodiché, ripeto, ci sono i privati, metteranno i soldi privati, se ce li perdono i privati. In base e faranno i calcoli sui diritti internazionali. L'audience televisivi. Televisiva dell'ultima Rai è stata di 600 milioni di telespettatori. Sono dati certificati, non che ce li stiamo inventando noi a sostegno. Il problema è che noi non abbiamo la percezione del fenomeno golf nel mondo. In Italia è chiaramente di nicchia. La stessa federazione internazionale metterà dei soldi perché vuole chiaramente che questo sport si diffonda ulteriormente. Chiaramente il golf come dire, è uno sport per ricchi, nel senso che ha questo imprinting evidente, però lo sforzo che sta facendo la federazione internazionale di abbassare costantemente i prezzi per permettere a un numero maggiore di persone di praticare questo sport. Poi può piacere, non può piacere, ognuno si fa piacere lo sport. Allora, che vuole. Giustamente qualche ascoltatore mi chiede: ma costa 97 milioni o deve garantire? No, non è che costa. È una garanzia, è la garanzia di 97. Che lo Stato appunto mette affinché le procedure, diciamo, di affidamento della Rider siano completate e si possa partire con tutti gli altri accordi. Allora, io dico una cosa, al di là del fatto che, ripeto, non ho visto queste polemiche quando giustamente, se non ricordo male, era Trapani che ospitò l'America's Cup, vi fu anche un'operazione di qualificazione del porto di Trapani, cioè ci sono degli eventi, delle manifestazioni di carattere mondiale che servono anche a riqualificare. Se poi uno mi dice sempre, ma partono le mazzette, allora non facciamo più niente, cioè l'amministrazione, il governo, mettiamoci cantone pure lì, cosa devo fare? Ma non si può bloccare tutto, smettere di partecipare a qualunque gara internazionale su manifestazioni sportive perché c'è il rischio che si rubi. Allora non facciamo neanche l'edilizia scolastica, non facciamo neanche le buche, non facciamo, tornando al tema del golf, una mazza. Detto questo, Stiamo raccontando da anni nella nostra classifica del venerdì, che tornerà anche venerdì, sprechi che messi assieme, altro che 97 milioni di garanzia. Io mi chiedo, ma perché non ho mai visto la sollevazione popolare per tutte le manifestazioni, le sagre della pizza coi fichi, che di cui è pieno questo paese, pagati con i soldi, pagate con i soldi pubblici, pagati con i soldi delle regioni, dei comuni, per non fare formazione, non fanno altre cose. Lì però, siccome la sagra è paesana, va bene a tutti. Siccome qua si parla di golf, ecco lo sport da ricchi. Ma chi se ne frega da ricchi da poveri, come la nautica e gli super yacht? Se li facciamo noi, li vendiamo e creiamo occupazione, ma vendiamo tutti gli super yacht del mondo ai miliardari del mondo, che chiaramente non si stanno generando in Europa, e questo lo dico a chi mi continua a insultare con epiteti che non posso ripetere. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Allora andiamo sul traffico, che poi devo andare subito a giocare a golf e impratichirmi, com'è che si chiama, sul putt, mi sembra che si chiama, una roba del genere. Traffico 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, andiamo sulla riforma della pubblica amministrazione. No, sorrido perché ogni tanto uno mi scrive, ma però con le sagre dei paesi i comuni incassano. Ma porca. Ed è lo stesso ragionamento per cui se tu hai un evento di carattere internazionale incasserà anche il comune di Roma, o no? O è l'unico comune, cioè incassi con la sagra pizza e fichi, non riesci a incassare, scusatemi, con la Ryder Cup di golf. Ma per favore, su. Oddio. Allora, Gianni Trovati, giochi a golf? No, purtroppo. Ma perché purtroppo? Mi metti nei casini così? Perché purtroppo? No. Punto. No, e basta, sennò senza sembra che siamo tutti schierati. Adesso mi chiede la lobby del golf. Ma la lobby del maglioncino, se volete, la lobby del pullover. Allora, Gianni Trovati, in vista dei rinnovi dei contratti degli statali, c'è la bozza del decreto Madia, questo parto lunghissimo, diciamo, che verrà presentato al Consiglio dei Ministri entro la metà di febbraio. I cittadini voteranno sulla qualità dei servizi, più potere alle sentinelle, a me viene sempre da ridere questo nome, mi ricordo gli avvistatori di neve in Friuli, le sentinelle, e poi sanzioni, le sanzioni, ma soprattutto, da quello che ho capito, c'è anche il progetto dei 25.000 disoccupati di partire con quello che riguarda il ricollocamento, sarebbe sbagliato, ma le prime lettere di ricollocazione vengono chiamate in senso tecnico. Gianni? Sì, allora, come sempre quando si riforma il pubblico impiego, in Italia lo facciamo periodicamente, come dire, ci sono questi aspetti, la valutazione dei cittadini e così via, che fanno tanto discutere, è bello parlarne, ma poi non è lì il nocciolo del problema. Qualcuno ricorderà, in qualche ufficio pubblico c'è ancora le faccine che tu dovevi schiacciare per dire se eri stato soddisfatto, poco, tanto, per nulla dal servizio, che avrebbero dovuto poi portare alle valutazioni dei dipendenti. Naturalmente questa cosa, che era prevista dalla riforma Brunetta del 2009, non è mai successa. Lì il punto vero è però cercare di creare una valutazione più o meno effettiva per differenziare un po' i premi di produttività, evitando le griglie rigide che sono state scritte nel 2009, non sono mai state applicate, ma rendono di fatto impossibile avviare la contrattazione. Il parto è stato molto lungo, come dicevi tu, ma si avvicina alla fine, anche perché è l'intenzione condivisa del governo e dei sindacati di far partire questo testo per portare a casa il rinnovo contrattuale. In questi giorni c'è un battibecco, la CGIL che accusa il governo di non convocarli o di parlare solo di licenziamenti e così via, ma è, come dire, la facciata politica. Dietro a questa facciata ci sono intense riunioni tecniche e il testo è in via di definizione. Naturalmente questo non vuol dire che succeda qualcosa domani, perché poi appunto bisognerà avviare le trattative. E ricordiamo che nell'intesa di fine novembre il governo ha promesso aumenti medi a regime di 85 euro, ma al momento di soldi ce n'è a sufficienza solo per spalmare, diciamo così, un aumento medio intorno ai 30, quindi da 30 a 85 ne manca più della metà, e in questa fase con l'Europa che guarda i conti e così via non sarà semplice trovare le risorse aggiuntive. Ecco, il tema che giustamente sta a cuore non è tanto la licenziabilità, ma il merito e quindi la valutazione di chi lavora nel pubblico impiego. Viene in qualche modo affrontato, perché va benissimo le sentinelle che dovrebbero informare sull'andamento e sulle performance della singola pubblica amministrazione, va benissimo che l'amministrazione possa sanzionare la cattiva condotta e senza aspettare la Cassazione nei casi più gravi, penalità per gli assenteisti, i premi non a pioggia, ma insomma ho capito che i cittadini possono votare la qualità dell'amministrazione, ma una volta che ho votato, se non capita nulla, poi mi passa anche la voglia, no? Sì, no, infatti io non farei tanto affidamento su questa parte, diciamo così, del provvedimento, sulle faccine, i voti, le sentinelle e così via. Il tema chiave della produttività è affrontato nel seguente modo. Oggi, senza riforma, con il nuovo contratto, bisognerebbe levare tutti i premi di produttività al 25% del personale, perché lo chiede la riforma Brunetta. Questo trasformerebbe, per questo 25% del personale pubblico, il rinnovo del contratto in una pessima notizia, nel senso che alla fine prenderesti meno di prima. Questo ostacolo, sotto lezioni? Beh, infatti, questo ostacolo è invalicabile per l'avvio della trattativa dei contratti. Si toglie questa griglia e si chiede di concentrare il 50% delle risorse sui più bravi e di dare il 50% agli altri. Questo in estrema sintesi. Allora, grazie a Gianni Trovati anche per questo ulteriore aggiornamento sul percorso della riforma Madia. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'augurio a tutti di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.